cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di un romanzo di uno scrittore tedesco piuttosto conosciuto anche in Italia. Lui si chiama Frank Schatzing ed è autore del libro Breaking News, pubblicato dalla casa editrice Nord. In genere lui è un autore di thriller o comunque di romanzi che hanno sempre a che fare col mistero. Come ci dice questo titolo, Breaking News, in questo caso il protagonista è un giornalista, Tom Hagen. Lo troviamo in due momenti diversi della sua vita. Prima, 2008, Afghanistan, lui vuole testimoniare dal vivo, vuole proprio riprendere un blitz che dovrebbe portare alla liberazione di 3 occidentali che sono stati sequestrati dai talebani, ma qualcosa va storto. E poi lo ritroviamo in Israele, a Tel Aviv, qualche anno dopo, quando ha la possibilità di pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Per sapere qualcosa di più di Breaking News, Frank Schatzing è stato intervistato da Adriano Palazzolo. Well, first of all, I needed a journalist because the story itself, it's about breaking news, about media. Innanzitutto avevo bisogno di un giornalista perché la storia riguarda le breaking news, i mezzi di informazione, ciò che è vero e ciò che non lo è. E avevo bisogno di qualcuno che avesse davvero toccato il fondo nella sua carriera a tal punto da falsificare una notizia per ritornare sulla cresta dell'onda. Il protagonista falsifica la notizia sull'infarto di Ariel Sharon, dicendo che in realtà si era trattato di un attentato, e dice all'editore: ho delle informazioni su questa cosa, non è stato un infarto, eccetera, e falsifica le prove per avvalorare questa versione. Ma ciò che in realtà il protagonista non sa è che davvero si è trattato di un attentato alla vita di Sharon. E così il giornalista, da cacciatore di notizie, diventa preda degli attentatori. Indeed, there was an assault on Sharon's life. And so now the hunter becomes the one who is hunted. Le informazioni in possesso di Tom però rischiano di far scoppiare definitivamente il conflitto in Medio Oriente, quello israelo-palestinese. Quanto la fama, la voglia di riscatto contano quando in ballo c'è un bene superiore, qualcosa di più importante? I think it depends on your personal situation. As long as he is successful, credo dipenda dalla situazione personale di ognuno di noi. Fino a quando lui ha successo, è una persona estremamente corretta, non fa cose del genere. È uno di quelli che vuole dire sempre il vero. La domanda su quanto sei una persona corretta e integra arriva solo nel momento in cui sei caduto così in basso che l'unico modo per risalire la china è dire una cosa falsa. E posso immaginare che nel mondo dei giornalisti questa sia una cosa che può accadere a volte, ma ovviamente Tom non è il simbolo perfetto del giornalismo. Conosco tanti giornalisti e sono persone assolutamente integerrime. Il modo in cui ti comporti è solo una questione individuale. It is always a question of your personal situation, how you act. Di sicuro il tema israelo-palestinese per chi scrive un thriller è un tema importante che dà molti spunti. È sicuramente un tema usato da tanti. Perché lo ha fatto anche lei? I didn't use it just because I was sitting there and saying to myself, I have to write a book about the Near East conflict. Never in my lifetime I wanted to do that. Non l'ho usato solo perché un giorno stavo seduto e mi sono detto, ah, devo scrivere un libro sul conflitto israelo-palestinese. È stato più un caso. Anni fa ero a colazione con amici ed abbiamo parlato di questo conflitto ed è venuta fuori una domanda: chi potrebbe risolvere questa guerra? E la mia risposta fu Ariel Sharon. Lui è stato il padre, a mio avviso, di ogni trattativa. Ha incoraggiato il dialogo. Negli ultimi anni lui è andato via da Gaza, facendo infuriare tutti i suoi amici integralisti. E stavamo parlando di tutto ciò, e all'improvviso ho pensato, Sharon non ha avuto un infarto, si è trattato di un attentato alla sua vita. Ma in giro non ci sono molte teorie cospiratorie veramente plausibili. Ma quella che mi era venuta in mente lo era, e dal momento che non sapevo granché sul Medio Oriente, ho cominciato a fare ricerche. E devo dire che rispetto a quanto ho dovuto studiare per Breaking News, le ricerche per il quinto giorno sono state una passeggiata. Then I started research and I have to say against the research for Breaking News, the research for il quinto giorno was piece of cake. Il nostro protagonista Tom nel corso della storia viene coinvolto in fughe, inseguimenti, omicidi. Come se la cava in tutto questo? È solo un giornalista o è una sorta di James Bond? I think he is developing from a journalist to a kind of a James Bond. But he is a James Bond in despair, one has to say. He is not. Credo si trasformi da giornalista in una sorta di James Bond, ma è un James Bond senza speranza. Non è un eroe nel senso stretto del termine. È un giornalista che si butta nell'avventura, nel pericolo, che si sporca le mani. È un personaggio che corre sempre dei rischi, ma ad un certo punto viene costretto prima a scappare. Poi però capisce che fuggire non risolve i problemi e allora è costretto a combattere e a uccidere. Deve diventare un James Bond, ma non lo desidera. La domanda è se io e te, nella stessa situazione di Tom, ci comporteremmo allo stesso modo. Beh, io credo di sì. The question is if you and me in a similar situation, if we would behave the same way. I think we would. La storia di Tom però non è l'unica in questo romanzo, si intreccia anche con quella nel flashback di due ragazzi che in Israele hanno avuto lo stesso percorso per un certo periodo e poi però proseguono per due strade separate. Come si intrecciano queste storie? Well, first of all, I never had the plan to write the historical part. I just wanted to write a thriller story with Tom. Non era mia intenzione scrivere anche una parte storica. Volevo solo scrivere un thriller con Tom protagonista. Ma più ci pensavo e più mi accorgevo che senza spiegare la storia del conflitto israelo-palestinese non potevo rendere plausibile la storia dell'attentato a Sharon. Quindi avevo pensato di dedicare una decina o ventina di pagine al passato per spiegare un po' le cose. Ma poi ho realizzato che raccontato la vita di Ariel Sharon potevo raccontare tutta la storia del conflitto ed Israele. Così ho pensato che per le persone potesse essere non solo interessante ma anche divertente conoscere la parte storica. E allora sarebbero serviti ben due libri, non uno. E la sfida è stata proprio quella di tenere tutto in un solo libro. And so a second book, so to say, occurred, and then it was my task to put these books together. Nella scrittura di un thriller è ovviamente soprattutto di breaking news. Come nasce l'idea della trama? Da quale personaggio si parte? E soprattutto, ha già chiara la fine del libro quando inizia a scriverlo? È una cosa che arriva in divenire? It starts like a love affair with a woman. Comincia come una storia d'amore con una donna. Quando inizia, non pensi mai alla fine. Mi sono innamorato di questa idea. Poi ho cominciato a flirtare con essa per conoscerla meglio. E per me questo ha significato leggere libri su questa guerra, sul giornalismo. Ho parlato con esperti, storici, giornalisti. Ho visitato Israele, la Palestina. Quindi si arriva al punto in cui hai così tante informazioni che puoi finalmente scrivere il romanzo. Ed è come se ti sposassi con la storia. That you can write the book and this means you get married to the story. Quindi lei scrive perché non può più innamorarsi e sposarsi, visto che è innamorato e sposato con una bellissima moglie. Yes, so to say. Sì, direi proprio di sì. La differenza è che con mia moglie spero di restarci fino alla fine dei miei giorni. Con i libri invece è dopo un po' divorzio, perché devo essere di nuovo libero per scrivere il prossimo. And when I'm finished I get divorced because I have to be free for the next one. È da anni che il mercato editoriale è invaso da thriller e gialli che arrivano dal nord Europa, dalla Svezia, dalla Norvegia. Lei, da tedesco, che opinione ha di questi libri? È un'invasione che ha fatto bene al mercato? Li legge? Cosa ne pensa? First of all, it's just a thing. It's a fact. Innanzitutto è solo un aspetto, un dato di fatto, diciamo. Ed è una cosa positiva per il mercato, per gli scrittori e per gli editori. Io ho letto alcuni di questi romanzi, li leggo tuttora. Ho adorato la trilogia Millennium di Stieg Larsson, ad esempio. Non so perché questa ondata di gialli arrivi dalla Norvegia e dalla Svezia. Forse perché sono terre buie, belle da un lato ma anche misteriose. Ma come ogni onda, si arriva a un punto in cui poi la corrente torna indietro e comincia il fenomeno del copia e incolla di questa formula di successo, che stanca dopo un po'. E direi che stiamo cominciando a stancarci. In Germania, invece, direi che noi scriviamo più le crime storie classiche. Succede qualcosa, qualcuno viene ucciso, arriva l'ispettore e risolve il caso. Da un paio d'anni, invece, sempre più scrittori si sono dati al thriller, a storie che hanno un'escalation, come i film hollywoodiani. È una cosa nuova per la Germania e forse potrebbe arrivare anche un'ondata tedesca. So there might be a German wave, a German thriller wave. Questo era Frank Schatzing, ora in libreria con Breaking News, pubblicato da Editrice Nord e intervistato da Adriano Palazzolo. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Per Per Carmen Pellegrino questo è il primo romanzo, non è il primo libro ma è il primo romanzo, quindi la prima opera di fiction. Si intitola Cade la Terra ed è pubblicato da Giunti. Tra l'altro è uno dei 5 romanzi finalisti al premio Campiello, che verrà assegnato, lo ricordiamo, il 12 settembre a Venezia. È un romanzo che posso definire struggente per tante ragioni, insomma, per i personaggi che racconta, per il modo in cui vengono raccontati i personaggi, quindi anche per la scrittura poetica in parte che viene utilizzata. Allora, veniamo alla trama di questo romanzo. C'è un paese, Alento, che sta lentamente scomparendo, cioè c'è una frana che danneggia le abitazioni, e così nel corso degli anni inizia ad essere disabitato, insomma, gli abitanti si trasferiscono in altri luoghi, diciamo a partire dagli anni 60 in poi. Una sola persona resterà in questo paese e la persona è Estella. Estella è l'ultima abitante di Alento ed è un'ex monaca, è entrata giovanissima in monastero, però dopo qualche anno decide di ritornare al suo paese, sperando di ritrovarvi un posto in cui stare, magari la casa in cui era cresciuta, se è vero che lei poi è di Alento, perché poi non Marcello, che è l'altra voce del romanzo, ne dubita della sua origine alentese. Però Estella Caparbia decide di ritornare lì e nel frattempo trova il paese abbastanza spopolato, perché la vita di Alento, del borgo, è accompagnata dagli inizi del secolo da una frana lenta, continua, e che ha potuto nei primi decenni del Novecento se n'è andato. Sono rimaste poche famiglie, è rimasta la famiglia di Marcello, che è una famiglia ricca del posto, e che è la famiglia presso la quale appunto Estella, insomma, va a fare l'istitutrice, sì. Insomma, è lì che inizia a conoscere Marcello, inizia a lavorare. Sì, gli farà da istitutrice. Tra i due in realtà c'è poca differenza d'età, un paio d'anni, e vivranno sotto lo stesso tetto per 8 anni. Poi Marcello andrà via con la sua famiglia, si trasferirà nel paese nuovo e Stella invece resterà in questa casa di cui in qualche modo si è appropriata, così come ha cercato di appropriarsi anche degli affetti della vita di Marcello, della madre, del padre prima che morisse. Lei che pensa, crede di non avere nessuno, di essere stata lei stessa abbandonata, probabilmente dall'affetto, quello più importante, l'affetto primigenio. Sì, si sente sempre, come dire, un senso di distacco in, sì, Estella. Ci sono diverse pagine dove tu parli della solitudine di Estella, ma non solo perché appunto torna a vivere ad Alento ormai disabitata, ma proprio perché ha subito un trauma affettivo, insomma. Sì, è una solitudine che lei ricerca anche, nel senso che è quasi convinta di non poter vivere diversamente da così, cioè di poter vivere solo in un guscio di solitudine che lei crea in continuazione, però poi lo disfa quando, ad esempio, vivendo nel paese ormai desolato, da sola, parlando con i muri, tirando tracce di vita dai muri che ha intorno, non solo della casa dove vive ma anche delle case degli abitanti, dei vecchi abitanti del paese, decide in qualche modo di farsi fare compagnia da questi fantasmi. Da questi fantasmi, perché lei, insomma, rievoca. Sì. A proposito della solitudine di Estella, in una delle pagine che tra l'altro mi è piaciuta di più di questo romanzo, tu scrivi, lei appunto parla in prima persona: lo so che ho scavato prigioni di solitudine, ma ho odiato il clangore della porta metallica che io stessa chiudevo con diverse mandate. Vorrei dirgli, si riferisce in questo caso a Marcello, che ero talmente convinta di non poter essere amata che amarmi deve essere stato difficile. Allora, prima ancora di parlare dei fantasmi che Estella rievoca, mi è piaciuto molto il rapporto che tu hai creato fra Estella e Marcello. Appunto, lei è l'istitutrice, lui però appunto ha solo un paio d'anni meno di lei, ed è un rapporto di odio-amore fra i due, sembra esserci sempre un braccio di ferro. Sì, e tra i due c'è un enorme non detto che si protrarrà per 50 anni, non se lo diranno mai, i due sono legati, lei se ne rende conto quando Marcello va via, Marcello e si lega da subito ad Estella, però nelle forme in cui riesce a manifestarlo, anche con delle piccole cattiverie, degli, la insulta spesso, anche perché la vede sempre sfuggente, lei non si dà non si lascia mai andare. E, però quando Marcello va via, poi va un po' più in là, a qualche chilometro di distanza, lei continuerà a credere di, appunto, di non poter essere amata e quindi di non poter neanche meritare l'amore di Marcello, seppure lo ha riconosciuto, perché forse nemmeno lo riesce a riconoscerlo, quell'amore che Marcello nel suo modo goffo in qualche modo le ha offerto negli anni. E così finiranno per vedersi solo attraverso i vetri della finestra della casa di Marcello, quando lei salirà al Paese Nuovo per fare provviste, e una volta all'anno a questa cena che lei organizza per i vecchi abitanti, a cui viene invitato anche Marcello, il quale non manca mai di, insomma, anche se in maniera polemica e ostile, di prendere parte proprio per rivedere Estella, di sedersi a tavola con lei, pur continuando, insomma, nella sua ostilità nei confronti di questa donna che non si concede mai. In genere, quando leggo i romanzi, penso sempre alle 50 pagine che potrebbero essere tagliate. In questo caso, devo dire, mi avrebbe fatto piacere sapere ancora qualcosa in più del rapporto fra Estella e Marcello, perché è una parte molto bella del romanzo che tu lasci anche un po' in sospeso. Ecco, il non detto fra loro due rimane detto anche nei confronti del lettore. Sì, ho voluto lasciare questa reticenza tra i due e anche al lettore, insomma, lasciargli immaginare un po'. I due sono vivi entrambi, quindi può succedere qualunque cosa. Infatti potrebbe proseguire il romanzo in qualunque modo. E veniamo alla cena, appunto, che Estella organizza, nel senso che lei vive in questo paese disabitato per, come dire, far fronte alla solitudine. Lei rievoca persone che hanno abitato quel paese e crea, diciamo, questa cena virtuale alla quale sono invitati questi fantasmi, persone che ormai non esistono più e alla quale appunto va anche Marcello. Diciamo che è una sorta di cena dei morti, sì, definiamola così. E qui attraverso questa cena lei riesce a rievocare, a raccontare la storia di diverse persone che hanno abitato in paese. E quindi c'è per esempio la storia di Libera Forti, che insomma vuole essere appunto libera, come dice il suo nome, determinata, ma poi viene costretta a sposarsi. C'è la storia di Giacinto, quello che annuncia i bandi e aspetta, come dire, il cappello che possa riconoscere appunto il suo mestiere, la sua professione. E poi ci sono tante altre storie, una famiglia che perde la figlia e così via. Come hai deciso di creare queste storie così, che si intrecciano poi, anzi che vengono rievocate da Estella? Sono un po' storie di vinti, ne avevo anche scritte altre, poi ne ho, insomma, per quello che dicevi tu, per dover tagliare, un effetto di sottrazione le ho tolte, perché poi sarebbe stato effettivamente troppo. A me piacciono i romanzi corali, però poi l'eccesso, insomma, non è così, devo dire, è riuscito alla perfezione. Sì, perché è molto incisivo, è molto bello. Sono storie anche varie, nel senso che non ci sono classi sociali, insomma, anche ideologie diverse. C'è l'anarchico, c'è con la figlia appunto libera che hanno potuto studiare, quindi c'è invece poi la famiglia dei Parisi, che è una famiglia molto povera di contadini. Sono proprio quelli che perdono la bambina per un errore del medico. Poi c'è questa figura di Lucia Parisi, questa ragazzina che si immagina favole, però appunto il padre in qualche modo glieli uccide questi sogni, queste favole che lei insomma immagina in maniera molto fertile così. Sono tutte storie drammatiche, dolorose, insomma. Volevo raccontare la desolazione di una terra e insieme anche trarne una condizione anche più generale, perché poi da storica, io ho una formazione da storica, pur celebrando l'importanza sempre della storia, mi rendo conto anche di quanto poi, di quanto dimenticato, cioè di quanti uomini e donne che consegnati a un'eternità di indifferenza, no? E che non, di cui non sapremo mai nulla, sono anche quelli vinti della storia, no? Sottoposti, questi che racconto io sono sottoposti a un destino quasi ineluttabile, inesorabile, anche di soggezione, anche quando ci provano in qualche modo ad evolversi, come Maccabeo, che era il venditore, il commerciante di Alento, che vendeva, aveva cominciato con un commercio di vasi da notte, ed era molto orgoglioso di essere poi arrivato a vendere anche cucchiaini d'argento, insomma una progressione anche nel suo mestiere, che sogna un futuro migliore per i suoi due figli, insomma li manda a scuola, li fa studiare, però poi la grande guerra glieli strappa, vengono mandati al fronte e non ritornano, quindi c'è sempre questa ineluttabilità, che è quella che io ho visto vivendo, io vengo da quelle terre lì, il Cilento montuoso, e ho visto spesso uomini e donne lottare contro qualcosa di più grande di loro, anche quando insomma provavano a superare, non so perché, non voglio parlare di un destino, di un fato, ma è come insomma, sì, vero, qualcosa... però sono tutti personaggi sconfitti, dalla vita, dal caso, adesso ognuno poi dal destino può dargli il nome che desidera. Tra l'altro tu hai reso anche protagonista questo piccolo borgo, questo paesino Alento, che è un paese appunto che sta franando, che lentamente si spopola. Tu vieni definita abbandonologa, ormai questa è, come dire, la definizione che ti viene sempre affibbiata. Che cosa vuol dire essere abbandonologa? Per me è uno stato d'animo più che un mestiere, un'attitudine a cercare proprio nella polvere che il tempo come un maniaco sparpaglia, proprio a cercare la bellezza in una molteplicità di brandelli, e soprattutto a trovare tracce di vita nelle anse in cui si va nascondendo e riportarle in qualche modo, a farle conoscere. Ecco, ma tu cosa fai? Una volta che hai trovato un borgo, un casolare, insomma un edificio abbandonato, cosa fai? Lo visito e poi cerco di ricostruirne la storia, poi ne scrivo. Sono molto convinta che la parola può salvare, l'utilizzo della parola, l'esperienza proprio della parola possa salvare, almeno dalla dimenticanza, almeno dall'indifferenza. Nelle storie che racconto, cioè quella bambina a cui facciamo riferimento prima, Mariuccia, che è una bambina nata e morta su un ciglio di strada, morta poi per un errore medico. Quella bambina è vissuta davvero e sulla sua tomba, morta negli anni 50, anche una data sbagliata, è stata scritta male la data di morte. Quando l'ho vista, dico, insomma, ci sono dei destini consegnati non solo a un'eternità di morte, ma a un'eternità di indifferenza. Allora, se ne stiamo parlando noi adesso qui, io l'ho scritta nel libro, in qualche modo la parola la sottrae a quella indifferenza a cui un destino insomma ostile l'aveva condannata. E allora io chiuderei proprio con un piccolissimo brano estratto da Cade la Terra di Carmen Pellegrino. Ho detto, mi ha appassionato particolarmente il rapporto fra Estella, l'ultima abitante di Alento, e Marcello, e c'è sempre un altro brano che li riguarda, la voce narrante Estella, e si riferisce a Marcello. Lui sapeva e perdonava, dal momento che io non ne avevo colpa. Ciò che poteva darmi me lo aveva dato. Ma io che sapevo? Solo questo, che è difficile restituire amore quando non se ne è avuto. E addirittura faticoso riconoscerlo, se non c'è stato modo di conoscerlo. Questo non mi giustifica, anzi mi opprime e mi angustia. Grazie Carmen Pellegrino per essere stata con noi. Il suo romanzo si intitola Cade la Terra, pubblicato da Giunti. E vi ricordo che questo libro, Cade la Terra, è uno dei 5 libri candidati al premio Campiello, e nel frattempo ha già vinto il premio Rapallo Carige per l'opera prima. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su podcast su radio24.it e mi trovate naturalmente anche su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.